Xiomara Castro, alla guida della coalizione di centrosinistra, candidata a presidente alle elezioni in Honduras, con quasi il 50%, con oltre il 50% degli scrutini effettuati, ha più del 50% delle preferenze e si è detta vincitrice delle elezioni. L'Honduras, dopo 8 anni di governo di Juan Orlando Hernández, è stremato, però pare essere pronto a cambiare volto e passo. Con noi dall'Argentina Federico Larsen. Ciao Federico. Ciao, come va? Allora, stiamo guardando con interesse, anche se sappiamo che la situazione in Honduras è molto complessa e non è detto che un cambio di presidente possa cambiare il passo del paese, però un buon segnale dopo soprattutto l'ultima legislazione di Hernández segnata da un golpe praticamente certo, quello del 2017, la vittoria delle sinistre potrebbe essere un segnale di un paese che vuole cambiare. Sì, effettivamente il paese vuole cambiare da tempo, il problema è se lo lasciano cambiare. Le forze armate, che addirittura portarono avanti un colpo di Stato nell'anno 2009, giustamente contro il marito di Xiomara Castro, no? Manuel Zelaya, colpevole in quel momento di essersi avvicinato all'asse, diciamo, bolivariano, l'asse della sinistra latinoamericana, e di voler portare avanti tra l'altro anche una riforma costituzionale. Nel mezzo di un referendum proprio per creare un'assemblea costituente, le forze armate presero il potere, Zelaya fu costretto ad esiliarsi insieme proprio a Xiomara Castro, che lo accompagnò in quel momento in Costa Rica. Da quel momento in poi abbiamo avuto praticamente governi semi-autoritari, è il modo con cui generalmente in America Latina li si nomina, cioè questa forma di portare avanti il potere mascherata di democrazia, perché si portano avanti determinate elezioni, ma che in pratica rimane sempre in mano alle stesse persone. Colui che era il presidente del Congresso nel 2009 e che fu veramente diciamo l'anima, il cervello di quel colpo di Stato contro Mel Zelaya è l'attuale presidente Juan Orlando Hernández, sì, che nel 2017 poi portò avanti dei brogli per mantenersi nel potere fino al giorno d'oggi. Questo sodalizio, diciamo, militare conservatore ha portato avanti ogni tipo di facezie, ogni tipo crimini, no? Tra gli altri quello mondialmente conosciuto di Berta Cáceres, no? La leader femminista del coordinamento dei popoli indigeni dell'Honduras, assassinata giustamente perché si opponeva alla costruzione di nuove dighe e di nuovi imprendimenti elettrici da parte di un consorzio di aziende guidato giustamente da militari ed ex militari amici di Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández in questo momento è accusato di narcotraffico, di aver utilizzato proprio tutto l'apparato militare dell'Honduras per favorire il narcotraffico di cocaina dal Centro America verso gli Stati Uniti. Suo fratello, che era deputato giustamente al Congresso honduregno, è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per narcotraffico. Buona parte del suo entourage è sotto giustamente indagine da parte dell'FBI negli Stati Uniti per narcotraffico, e si teme che il potere accumulato da questo tipo di settori giustamente di fronte all'evidenza, no, dei voti realizzato domenica, no, delle elezioni di domenica, reagisca violentamente, cioè reagisca un'altra volta come lo ha già fatto nel 2009 con il colpo di Stato, come lo hanno fatto nel 2017 con i brogli, cercando di accaparrare la maggior quantità di potere possibile. Un dato importantissimo: non solo si vota per rinnovare la presidenza, ma si vota anche per rinnovare il Congresso. Sono 128 deputati, Congresso unicamerale. Perché è importante? Perché il nuovo Congresso deve scegliere il prossimo procuratore generale e deve scegliere anche i nuovi membri della Corte Suprema dell'Honduras, tenendo in conto che Juan Orlando Hernández e buona parte del Partito Nacional sono accusati di atti di corruzione, di crimini perpetrati giustamente dalle forze regolari e irregolari in Honduras. Quell'elezione è assolutamente chiave per loro per poter continuare a mantenere la loro impunità ed esercitare il potere anche nell'ombra, no? Pur non avendo più il potere esecutivo o il potere istituzionale in tutto il paese, no? Assolutamente, però mi viene anche da dire, come dicevi te, il paese da tempo che vuole cambiare, bisogna capire se gli viene permesso. Una parte del discorso non risiede solo in Honduras, ma risiede anche all'estero, come sempre succede poi in quel che accade in Latino America. Mi viene da dire che gli ultimi 4 anni del governo Hernández hanno devastato ancora di più il tessuto socio-economico dell'Honduras, per cui potrebbe anche essere forse una tattica di qualcuno poter vedere un presunto cambio democratico alla guida del paese. Sì, teniamo in conto che i brogli del 2017 sono stati praticamente benedetti dall'Organizzazione degli Stati Americani, che è giustamente un'organizzazione che riunisce tutti gli stati del continente americano, ma che in realtà è a guida chiaramente statunitense. Hanno denunciato i brogli, ma poi hanno riconosciuto la presidenza di Juan Orlando Hernández, per cui praticamente è come se li avessero benedetti. E poi dall'altra parte c'è un'altra questione. Dal punto di vista geopolitico, l'Honduras, le elezioni in Honduras sono chiave per varie ragioni. Una, la più semplice, la più evidente, gli honduregni sono il popolo che maggiormente partecipa alle carovane migranti, è il popolo che alimenta in modo più massiccio le migrazioni verso gli Stati Uniti, e sappiamo che è un elemento molto molto delicato anche per la politica domestica degli USA. Ma poi c'è anche un'altra questione. Ci sono già diversi presidenti nella regione che si sono trasformati negli ultimi mesi e negli ultimi anni in un vero problema per l'amministrazione nordamericana, sia per Trump sia per Biden. Parliamo principalmente di Bukele, presidente del Salvador, che giustamente ha messo un po' in scacco l'egemonia degli Stati Uniti, perlomeno all'interno del proprio paese, ultimamente tra l'altro con una nuova legge che regola l'attività delle organizzazioni straniere sul proprio territorio e che limita fortemente anche l'attività dei movimenti sociali, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di base. E poi dall'altra parte abbiamo il Nicaragua, no? Il Nicaragua di Ortega, che ha avuto le sue elezioni qualche settimana fa, praticamente riconosciute solamente da pochi paesi, da Venezuela, Cuba e Bolivia e un altro paio. Poi il resto del continente americano non riconosce la legittimità di un'elezione portata avanti con 7 candidati a presidente oppositori incarcerati. Per cui non solo in Latin America, diciamo, un po' tutto il mondo non riconosce questo. Esattamente, risultato. Esattamente. Per cui è una regione dove effettivamente stanno succedendo una serie di cambiamenti che interessano apertamente, no, agli Stati Uniti, che tra l'altro sul dossier latinoamericano sta facendo un po' acqua, no? Si è visto già alcuni corticircuiti tra Biden e i suoi e Kamala Harris, no? Che era l'incaricata giustamente di mantenere la relazione con il Centro America, e che effettivamente si è vista un po', diciamo, tirare le orecchie, no? Dall'amministrazione della Casa Bianca negli ultimi mesi in quanto al suo disimpegno in quel senso. Per cui mi sembra che è un'elezione abbastanza delicata, sia dal punto di vista domestico, no? Per quello che dicevamo, quello che sta succedendo con come si gestisce il potere in Honduras, sia dal punto di vista geopolitico proprio in Centro America per il futuro, no? Grazie Federico di essere stato con noi e come sempre a presto. A presto, quando volete, ciao.